Campi cupi a Roma, sembra tutta scura, sembra tutta nera. Regna la paura, non c'è più fiducia in questa grigia sfera. Prova a camminare senza occhiali per le sue strade. Stai poi certo che qualcuno metterà i bastoni tra le tue ruote. Porca vacca, non c'è aria, non c'è posto neanche per pisciare. Se cammini storto senza scarpe, senza carta, iniziano a sparare. Senza poi parlare che i sepolcri continuano a bluffare. Ed i turisti come greggi fanno foto, fanno finta di ignorare. Se vivessi di ricordi potrei ancora raccontare tutto il sangue che è costato, la bellezza di ogni impiastro imperiale. Nel semaforo sta il verde, non c'è spazio neanche per dormire. Se qualcuno ti avvicina ti considera un maiale. Impallinato, impallidito, vago nel viale dal Foro Italico a San Pietro e ti incontro sul lampione un accorato che sta lì a cantare, gli stornelli che fanno piagne, tutto il quartiere è lungo il Tevere armonioso, si respira libertà, Roma capitale degna, resta una gran città. Dalle chiese ai quartieri tutto resta illuminato, e se un forestiero arriva ne rimane innamorato. Cosa dire di quest'aria così pura e così fresca, e gli odori genuini, e quest'aria sempre in festa, e quel vino dei castelli e la trattoria romana. Certo che sei proprio grande, Roma mia, Roma nostrana. Tempi cupi a Roma, sembra tutta scura, sembra tutta nera. Regna la paura, non c'è più fiducia in questa grigia sfera. Prova a camminare senza occhiali per le sue strade. Stai più certo che qualcuno metterà i bastoni tra le tue ruote. Lungo il Tevere armonioso si respira libertà. Roma capitale degna, resta una gran città. Dalle chiese ai quartieri tutto resta illuminato, e se un forestiero arriva ne rimane innamorato. Cosa dire di quest'aria così pura e così fresca, e gli odori genuini, e quest'aria sempre in festa, e quel vino dei castelli e la trattoria romana. Certo che sei proprio grande, Roma mia, Roma nostrana. Bombay,